14. L'ammutinamento. In quel periodo fu un conforto per Margaret scoprire che sua madre si rivolgeva a lei con più tenerezza e confidenza di quanto non avesse più fatto dai tempi della sua infanzia. La teneva nel cuore come un'amica fidata, il posto che Margaret aveva sempre desiderato riempire, tanto da invidiare Dixon perché era la preferita. Margaret si faceva in quattro per rispondere a tutte le richieste di attenzione che la madre le rivolgeva, ed erano tante, anche se si trattava di inezie, che da sola non avrebbe notato e a cui non avrebbe dato peso più di quanto l'elefante si accorga dello spillo nella zampa, che però solleva con la massima cautela alla richiesta del suo guardiano. Senza rendersene conto, Margaret si avvicinò a una ricompensa. Una sera, che il signor Hale non era in casa, la madre iniziò a parlarle di suo fratello Frederick, proprio l'argomento su cui Margaret aveva tanto desiderato fare domande e pressoché l'unico sul quale la sua timidezza aveva la meglio sulla sua naturale franchezza. Più voleva sapere di lui, meno riusciva a parlarne. Oh, Margaret! C'era un tale vento la scorsa notte, scendeva ululando giù per il cammino della nostra stanza. Non sono riuscita a dormire. Non ci riesco mai quando il vento è così forte. Sono diventata insonne quando il povero Frederick era per mare e adesso, anche se non mi sveglio più, all'improvviso lo sogno, in acque tempestose, in mezzo a muri di onde enormi, limpide, verdi come vetro a ogni lato della nave, ma molto più alti dei suoi stessi alberi che si increspano sopra di essa con quella crudele, terribile schiuma bianca, simile a un serpente dalla cresta gigante. È un vecchio sogno, ma ritorna sempre nelle notti ventose, fino a quando, grazie al cielo, mi sveglio mettendomi a sedere sul letto con la schiena dritta e irrigidita per la paura. Povero Frederick! È sulla terraferma ora e il vento non può più fargli del male, sebbene abbia pensato che potesse far crollare giù uno di quegli alti camini. Mamma, dove si trova Frederick adesso? Le nostre lettere sono indirizzate all'attenzione dei signori Bourbon a Cadiz, lo so, ma lui dov'è? Non ricordo il nome del posto, ma non si fa più chiamare Hale, non devi dimenticartelo, Margaret. Guarda le iniziali FD in tutti gli angoli delle lettere. Ha preso il nome di Dickinson. Volevo che si facesse chiamare Beresford, nome al quale avrebbe un certo diritto, ma tuo padre ha pensato che fosse meglio di no. Potrebbe essere riconosciuto, sai, se si chiamasse col mio nome. Mamma, disse Margaret, ero dalla zia Shaw quando è successo e suppongo di essere stata troppo piccola per sapere tutta la verità, ma adesso la vorrei sapere, se è possibile, se non ti causa troppo dolore parlarne. Dolore? No, rispose la signora Hale mentre le si infuocavano le guance, ma mi addolora pensare che potrei non rivedere mai più il mio adorato figliolo. Comunque ha agito bene, Margaret. Possono dire ciò che vogliono, ma ho le sue lettere da mostrare. Io gli crederò, e non perché sia mio figlio, ancora prima di qualsiasi corte marziale sulla terra. Vai al piccolo mobiletto giapponese, cara. Nel secondo cassetto sulla sinistra troverai un pacco di lettere. Margaret andò. Le lettere ingiallite dall'acqua di mare erano lì con quella particolare fragranza che hanno le lettere che vengono dall'oceano. Le portò a sua madre, che tolse il laccio di seta con le dita tremolanti, poi, esaminandone le date, le diede da leggere a Margaret, commentandone i contenuti con fretta impaziente, prima ancora che la figlia potesse aver capito quali fossero. Vedi, Margaret, come proprio fin dall'inizio il capitano Ride non gli piacesse. Era il sottotenente della nave, la Orion, con la quale Frederick salpò la prima volta. Povero ragazzo! Come stava bene con la divisa da cadetto, con in mano il pugnale con il quale apriva tutte le pagine del giornale usandolo come fosse un tagliacarte. Tuttavia, questo signor Ride era allora signore, sembrò prendere in antipatia Frederick fin dall'inizio. E poi, aspetta, queste sono le lettere che ha scritto a bordo della Russell. Una volta che fu assegnato a questa nave e che trovò al comando il suo vecchio nemico, il capitano Ride, decise che avrebbe sopportato con pazienza tutto il suo dispotismo. Guarda, questa è la lettera, ti basterà leggerla. Margaret, fermati al punto in cui dice: mio padre può contare su di me e sul fatto che sopporterò con tutta la dovuta pazienza ogni cosa che un ufficiale o un gentiluomo può subire da un altro. Ma avendo conosciuto in passato il mio attuale capitano, confesso di aspettarmi con preoccupazione un lungo periodo di tirannia a bordo della Russell. Vedi, promette di sopportare con pazienza e sono certa che lo abbia fatto, dal momento che era il ragazzo più gentile e moderato che ci potesse essere quando non veniva provocato. È quella la lettera in cui parla dell'impazienza del capitano Reid con i suoi uomini, perché non erano così veloci nelle manovre di bordo come quelli della Avenger. Vedi, dice che avevano molte braccia nuove a bordo della Russell, mentre la Avenger era stata quasi 3 anni nella base navale, senza far altro che tenere lontani i trafficanti di schiavi e formare i suoi uomini per farli correre su e giù a eseguire le manovre come topolini o scimmiette. Margaret lesse lentamente la lettera, per metà illeggibile a causa dello scolorimento dell'inchiostro. Forse era, probabilmente lo era, una dichiarazione dell'autoritario capitano Reid molto esagerata dal narratore, che l'aveva scritta a caldo subito dopo la lite. Visto che alcuni marinai erano in alto a far manovre sulla controranda principale, il capitano aveva ordinato loro di muoversi e scendere, minacciando l'ultimo con il gatto a 9 code. Quello che si trovava più in alto sull'albero piccolo, intuendo che era impossibile superare i suoi compagni e allo stesso tempo con il terrore di essere vergognosamente fustigato, si lanciò giù disperatamente nel tentativo di afferrare una corda molto più in basso. Non ci riuscì e cadde privo di sensi sul ponte. Morì qualche ora dopo e l'indignazione dell'equipaggio della nave era giunta a un livello pericoloso quando il giovane Hale scrisse: «Ma questa lettera non l'abbiamo ricevuta che molto, molto tempo dopo aver sentito dell'ammutinamento. Povero Fred. Credo che per lui sia stato un conforto scriverla, anche se non sapeva come fare per spedirla, povero ragazzo». E poi abbiamo letto la cronaca sui giornali. C'è da dire molto tempo prima di ricevere la lettera di Fred, di un atroce ammutinamento che era scoppiato a bordo della Russell e di come gli ammutinati erano rimasti in possesso della nave diventata, si supponeva, una nave di pirati. E il capitano Reid venne mandato alla deriva in una barca con alcuni uomini, ufficiali o simili, di cui vennero resi noti i nomi perché vennero presi a bordo di una nave a vapore delle Indie Occidentali. Oh, Margaret, come ci siamo sentiti male, tuo padre Dio, per quella lista, vedendo che non c'era il nome di Frederick Hale. Pensavamo che si trattasse di un errore. Fred, infatti, era un così bravo ragazzo, forse soltanto un po' troppo passionale, e speravamo che il nome Carr, che era nella lista, fosse un errore di stampa per Hale. I giornali sono così imprecisi. Il giorno seguente, verso l'ora in cui arriva la posta, papà partì per andare a piedi a Southampton a comprare i giornali e io non riuscii ad aspettarlo a casa, così gli andai incontro. Era molto in ritardo, più di quanto pensassi. Lo aspettai seduta sotto la siepe e finalmente arrivò con le braccia penzoloni e la testa bassa, camminando con difficoltà, come se ogni passo fosse un'enorme fatica. Margaret, ce l'ho ancora davanti. Non continuare, mamma, capisco tutto, disse Margaret, restringendosi amorevolmente al fianco della madre e baciandole la mano. No, non puoi, Margaret. Nessuno che non l'abbia visto allora può capire. A stento riuscii ad alzarmi e andargli incontro, e all'improvviso mi sembrò che tutto mi girasse vorticosamente intorno, e quando lo raggiunsi non disse nulla, né sembrò sorpreso di vedermi lì, a più di 3 miglia da casa, accanto al faggio di Oldham. Poi mi prese sotto braccio e continuò ad accarezzarmi la mano, come se volesse aiutarmi a mantenere la calma per affrontare un duro colpo. E mentre tremavo a tal punto da non riuscire a parlare, mi prese tra le sue braccia, posò la sua testa sulla mia e iniziò a fremere e a piangere con una strana voce soffocata e lamentosa, finché io, per l'enorme spavento, rimasi completamente immobile, chiedendogli soltanto di dirmi quello che aveva sentito. Dopodiché, con uno scatto della mano, come se qualcun altro la stesse muovendo contro la sua volontà, mi diede da leggere un giornale abominevole che chiamava il nostro Frederick un traditore della peggior specie, un disonore ignobile e ingrato per la sua professione. Oh, non so dire quali altre spregevoli parole non usarono. Afferrai il giornale appena terminai di leggere e lo strappai in piccoli pezzi, lo strappai. Oh, Margaret, credo di averlo strappato con i denti. Non piansi. No, non ci riuscivo. Avevo le guance in fiamme e persino i miei occhi si infiammarono. Vidi che tuo padre mi guardava, serio. Dissi che era una bugia. E infatti era così. Mesi dopo arrivò questa lettera e tu puoi vedere come Frederick sia stato provocato. Non è stato per se stesso o per i torti da lui subiti che si è ribellato, ma disse al capitano Reid quello che pensava e così andò di male in peggio e come vedi la maggior parte dei marinai è rimasta con Frederick. Penso, Margaret, continuò dopo una pausa, con un filo di voce flebile e spossata, che ne sono contenta. Che Frederick si sia ribellato all'ingiustizia mi rende più orgogliosa che se si fosse semplicemente comportato da buon ufficiale. Io lo sono di certo, disse Margaret con tono fermo e deciso. È bene essere leali, obbedire al buon senso e alla giustizia, ma è ancora meglio ribellarsi al potere arbitrario usato ingiustamente e crudelmente, non nel nostro interesse, ma nell'interesse dei più indifesi. Per tutto questo. Come vorrei poter vedere Frederick ancora una volta, soltanto una. È il mio primo figlio, Margaret. La signora Hale aveva un tono nostalgico mentre parlava e quasi si scusava per quel suo bramoso desiderio, come se stesse sminuendo la figlia, ma una tale idea non attraversò mai la mente di Margaret. Lei stava pensando a come il desiderio di sua madre potesse essere esaudito. È accaduto 6 o 7 anni fa. Potrebbe essere ancora perseguito, mamma. Se tornasse e fosse processato, a quale pena andrebbe incontro? Ovviamente potrebbe portare la prova di quella provocazione inaudita. Non servirebbe a nulla, rispose la signora Hale. Alcuni dei marinai che erano con Frederick vennero presi e ci fu una corte marziale a bordo della Amithia. Credetti a tutto quello che dissero in loro difesa, poveri ragazzi, perché combaciava con la storia di Frederick, ma non servì a nulla. E per la prima volta durante la conversazione la signora Hale si mise a piangere. Ciò nonostante qualcosa spinse Margaret a estorcere a sua madre l'informazione che si aspettava e allo stesso tempo temeva. Che ne fu di loro, mamma? Chiese. Vennero impiccati all'albero della nave, disse la signora Hale in tono solenne. E la cosa peggiore fu che la corte, condannandoli a morte, sostenne che in quel modo pagavano per essere stati distolti dal dovere dai loro superiori. Rimasero in silenzio a lungo. E Frederick è stato in Sud America per parecchi anni, giusto? Sì, adesso è in Spagna, a Cadice o da quelle parti. Se torna in Inghilterra sarà impiccato. Non rivedrò mai più il suo volto, perché se torna in Inghilterra, sarà impiccato. Nessun conforto sarebbe servito. La signora Hale si voltò verso la parete e restò perfettamente immobile nella sua disperazione di madre. Non c'era nulla da dire per consolarla. Tolse la mano da quella di Margaret con un piccolo movimento impaziente, come se volesse essere lasciata sola con il ricordo di suo figlio. Quando il signor Hale entrò, Margaret uscì in preda allo sconforto e senza neanche uno spiraglio di luce all'orizzonte. 15 padroni e operai. Margaret, dobbiamo ricambiare la visita della signora Thornton. Le disse il padre il giorno seguente. Tua madre non sta molto bene, non se la sente di camminare fin lì, ma tu ed io ci andremo oggi pomeriggio. Mentre andavano, il signor Hale si mise a parlare della salute di sua moglie con una sorta di velata preoccupazione che Margaret fu contenta di vedere finalmente risvegliata in lui. Hai visto il dottore, Margaret? L'hai fatto chiamare? No, papà, dicevi di farlo venire a visitare me, ma io stavo bene. Se solo conoscessi un buon dottore, ci andrei questo pomeriggio e gli chiederei di venire perché sono sicura che la mamma ha qualcosa di serio. Disse la nuda e cruda verità dal momento che suo padre si era rifiutato categoricamente di accettare quest'idea l'ultima volta che lei gli aveva manifestato le sue paure. Ma adesso la situazione era cambiata. Le rispose in tono avvilito: Pensi che abbia qualche male di cui ci tiene all'oscuro? Pensi che sia veramente molto malata? Ha detto qualcosa, Dixon? Oh, Margaret, la paura che il nostro trasferimento qui a Milton la uccida mi perseguita. La mia povera, povera Maria. Oh, papà, non pensare queste cose, disse Margaret sconvolta. Non sta bene tutto qui. Molte persone non stanno bene per un certo periodo e con buoni consigli migliorano e diventano più forti di prima. Ma non ha detto nulla di lei, Dixon? No, sai che a Dixon piace fare mistero anche delle sciocchezze ed è stata un po' vaga sulla salute della mamma, il che mi ha piuttosto allarmata, tutto qui, senza alcun motivo direi. Ricordi, papà, l'altro giorno sei stato tu a dirmi che era solo una mia fantasia. Oh, spero e confido che sia così, ma non pensare a quello che ho detto quella volta. Apprezzo che fai delle supposizioni sulla salute di tua madre. Non avere paura di dirmele. Mi va di saperle, sebbene, lo ammetto, ho parlato come se ne fossi infastidito, ma chiederemo alla signora Thornton di consigliarci un bravo dottore. Non butteremo via i nostri soldi per uno che non sia di primo ordine. Aspetta, svoltiamo in questa strada. Sembrava che in quella via non potesse esserci nessuna casa abbastanza grande da essere la residenza della signora Thornton. L'aspetto del figlio non aveva mai suggerito alcunché in merito al tipo di casa in cui viveva, ma inconsciamente Margaret si era immaginata che l'alta e imponente signora Thornton, vestita in modo così elegante, dovesse vivere in una casa che rispecchiasse il suo carattere. Invece, Marlborough Street era fatta di lunghe fila di casette con muri ciechi qua e là, perlomeno questo era tutto quello che riuscivano a vedere dal punto in cui vi entrarono. Mi ha detto che abita in Marlborough Street, sono sicuro, disse signor Hale con aria alquanto perplessa. Forse vivere in una casa piccola è un altro dei suoi modi per risparmiare. Comunque c'è molta gente qui intorno, lasciami domandare. Chiese quindi a un passante, che le disse che il signor Thornton abitava accanto alla fabbrica e le indicò la guardiola d'ingresso dell'edificio alla fine del lungo muro cieco che avevano notato. Il cancello d'ingresso assomigliava a un comune cancello da giardino. Da un lato c'erano grandi portoni per l'entrata e l'uscita di carri e barocci. Il custode li fece entrare in un enorme cortile rettangolare su un lato del quale si trovavano gli uffici amministrativi. Sul lato opposto, un immenso fabbricato con tante finestre da dove proveniva l'incessante clangore dei macchinari e il ruggito della macchina a vapore, graffiante e prolungato quanto bastava per rendere sordi coloro che abitavano dentro la recinzione. Di fronte al muro, fiancheggiato dalla strada, lungo uno dei lati stretti dell'edificio rettangolare, c'era un'elegante casa rivestita in pietra, annerita, a dire il vero, dal fumo, ma con la vernice, le finestre e le scale tenute scrupolosamente pulite. Era evidente che fosse una casa costruita circa 50 o 60 anni prima. I rivestimenti in pietra, le finestre lunghe e strette, il loro numero, le rampe di scale che conducevano alla porta d'ingresso e che salivano da entrambi i lati, protette dalle inferriate, attestavano l'età dell'edificio. Margaret si chiedeva soltanto come mai persone che potevano permettersi di vivere in una casa così bella e tenuta così perfettamente in ordine non preferissero un'abitazione molto più piccola in campagna o anche in qualche sobborgo, piuttosto che nella vorticosa confusione della fabbrica. Le sue orecchie, che non erano abituate al rumore, riuscivano a stento a udire la voce del padre mentre erano sulle scale ad aspettare che aprissero la porta. Il cortile, inoltre, con quegli enormi cancelli nel muro cieco che faceva da confine, era l'unica squallida prospettiva dai salotti della casa, come scoprì Margaret dopo che ebbero salito l'antica scalinata e furono accompagnati nel soggiorno, le cui tre finestre si trovavano sopra la porta principale e la stanza alla destra dell'ingresso. Nel soggiorno non c'era nessuno. Sembrava che nessuno ci fosse più stato dal giorno in cui i mobili erano stati ricoperti con meticolosa cura, come se la casa fosse destinata a essere sommersa dalla lava e venire scoperta dopo 1000 anni. Le pareti erano rosa e oro, il disegno del tappeto raffigurava fasci di fiori su uno sfondo chiaro, ma il centro era ricoperto con cura da un panno di lino spento e sbiadito. Le tende delle finestre erano di pizzo, Ogni poltrona e ogni divano aveva il suo proprio rivestimento fatto a maglia o a uncinetto. Vistose composizioni di oggetti di alabastro occupavano tutte le superfici orizzontali, protetti dalla polvere sotto le loro campane di vetro. Al centro della stanza, proprio sotto il lampadario ricoperto anch'esso, c'era un grande tavolo rotondo con libri finemente rilegati, sistemati a intervalli irregolari sulla circonferenza della sua superficie tirata a lucido, come raggi variopinti di una ruota. Ogni cosa rifletteva luce, nulla la assorbiva. L'intera stanza era un penoso sbrilluccichio di lustrini e cristalli e Margaret ne fu talmente disgustata che a malapena si rese conto della particolare pulizia necessaria per tenere tutto così lindo e immacolato in un ambiente simile o del disturbo che uno doveva volontariamente prendersi per assicurare quella freddezza e quel candore che mettevano a disagio. Ovunque guardasse, erano evidenti la cura e la fatica, ma non quella cura e quella fatica che procurano agio per facilitare le abitudini della tranquilla attività domestica, unicamente per abbellimento e quindi per preservare l'abbellimento dallo sporco e dalla rovina. Ebbero il tempo di osservare e di parlarsi liberamente a voce bassa. Prima che la signora Thornton comparisse, stavano parlando di cose che tutti potevano sentire, eppure il tipico effetto di stanze come quella a far sì che le persone parlino a bassa voce, come per non voler destare eco nuove. La signora Thornton finalmente arrivò facendo frusciare, come era sua abitudine, l'elegante vestito di seta nero. Le sue mussoline e i pizzi rivaleggiavano senza superarli con il bianco candore delle mussoline e dei pizzi della stanza. Margaret spiegò come mai sua madre non aveva potuto accompagnarle per ricambiare la visita della signora Thornton, ma preoccupata di riaccendere troppo le paure del padre, diede una motivazione confusa, lasciando nella mente della signora Thornton l'impressione che quella della signora Hale fosse un'indisposizione temporanea o quella immaginaria di una capricciosa signora raffinata che avrebbe potuto essere messa da parte per un motivo abbastanza valido. Altrimenti, se si fosse trattato di qualcosa di troppo serio per permetterle di uscire quel giorno, la visita avrebbe potuto essere rimandata. Ricordandosi inoltre dei cavalli per la carrozza presi a noleggio per la sua visita agli Hale e di come il signor Thornton avesse imposto a Fanny di andare per porgere tutti i loro omaggi, la signora Thornton drizzò la schiena in qualche modo offesa e non fu per niente comprensiva con Margaret. Effettivamente non diede alcun credito alle sue parole sull'indisposizione della madre.